Nella mia preparazione, essendoci poi davanti un'Olimpiade, la parte più importante, diciamo, che comincia da dopo questi campionati europei di Debrecen in poi. Questo perché in questi anni ormai, insomma, la preparazione è più che collaudata con questa atleta, abbiamo fatto già un'Olimpiade insieme, abbiamo vinto tanti mondiali, quindi ci conosciamo molto bene e sappiamo che ormai delle cose sono pronte, andiamo a lavorare un po' più nello specifico, diciamo, da un mesetto prima, e invece fin qui si è preparato soprattutto un po' quello che io chiamo il fondo, no? Un po' come in una preparazione atletica, predisporsi a tutta una serie di questioni nella gestione dello stress. E poi invece da questo momento in poi, di una stagione come questa, è chiaro che si comincia a predisporsi proprio invece più sull'aspetto prettamente, per esempio, delle rivali, l'aspetto sportivo puro, e poi si arriva alla finalizzazione, come ho detto, circa un mesetto prima.